dici te, perché io alla fine lo so quello che faccio, quello che non faccio. Tu che cosa c'entri? Non è perché sei bionda che capisci tutto quanto. Dormi, c'è luce ma tu dormi. Ho inventato un programma geniale fatto apposta per me. Sogni, rubi nei miei sogni. Prendi quello che non riesci a trovare nei ricordi che hai. Ti aspetterò quando il buio scenderà sulla terra, quando il peso della sveglia sarà ancora insopportabile. Camminerò sopra i fili del telefono, aspettando di cadere un'altra volta nello stesso errore. Quella storia della Valtournanche, che poi non ci siamo andati perché c'era quel medico di mezzo.